quindi è stato tutto il contesto, e tutto ci sta rimasto male. A maggior ragione, se quando abbiamo avuto il locale ti ho detto, Flavia, ci sono rimasta male, non è che mi hai detto, non è che mi aspetto che subito mi dici qualcosa, perché ci può anche stare che tu sia iper nervoso per cazzo, cioè avrai la tua vita. Cioè, mi aspettavo che magari, ma non mi aspettavo niente, però qualche giorno dopo potevi ricercarmi e dirmi, madonna, scusami, l'altro giorno ho fatto una.